Celentano alza ulteriormente il tiro contro i vertici della Chiesa. Gesù Cristo si crede un padre eterno, ma io in via Gluck non l'ho mai visto. No, e andiamo avanti così, chissà come si farà.